non ho mai avuto uno screzio, una cosa, eravamo d'accordo, eravamo papà e ciccia, sempre insieme, dalle tre ci trovavamo, via, facciamo questo, facciamo l'altro, eravamo sempre in movimento, sempre. E poi lui si aveva preso la macchina, ha svoltato tutto il motore, perché lui dove mette mano, guarda, in campagna ci ha fatto tutto lui, ci ha fatto le fondamenta, ci ha fatto prestare la ruspa, ci ha fatto le fondamenta, solo per il tetto della casa, ma ha fatto una casa enorme, grandissima, anche troppo grande, secondo me, c'è di tutto, e ha messo tutto Valentino, tutta roba di lusso, e niente, ci ha fatto tutto infilare, ci ha fatto tutta l'illuminazione lui, è una persona che ha le mani d'oro, è di quelle che si danno da fare, che sa fare di tutto. E niente, mi ha fatto un piacere messo ritrovarlo, perché eravamo un po' di tempo, non ci vedevamo, un bel po' di anni, la figlia è grande adesso e tutto, ci siamo raccontati tante cose, purtroppo ho saputo che era morta la cugina, che era una grande amica mia, e io non sapevo nulla, e mi ha detto che purtroppo ci sono anche le cose brutte che si raccontano. Eh beh, effettivamente quando si vede dopo tanto tempo, ci sono tante cose belle, ma anche le cose che non sono proprio belle belle. Vabbè, e comunque è stata una bella... Monica ci ha fatto proprio un grosso favore a farci rincontrare, perché diciamo è stato tutto prima all'inizio, quando eravamo sposati ci invitavamo a cena, una cena a casa dell'altro, sempre, poi le cose si sono cambiate, perché abbiamo avuto figli piccoli e tutto quanto, tu lo sai meglio di me che anche tu li hai avuto un figlio, quindi poi ci siamo presi un po' di vista, però ci telefonavamo, ma poi un po' le strade, sai come sono, è la vita, non è questione di vita, mio padre me lo diceva sempre, gli amici ci sono sino a un certo punto, poi ognuno prende la sua strada, e così era, io lo vedevo un po' superficiale quando mi diceva certe cose, però non era così, era realtà. No, è giusto, si diceva delle cose sagge, è vero, io ripeto, io amici ne ho tanti, nel tempo, da quando ero ragazzo, sì, ci incontriamo, ci salutiamo, ci abbracciamo, però non li puoi frequentare tutti, una volta che poi tu hai, come hai detto bene, una volta che hai famiglia all'inizio, meno male quando sei fidanzato, sposato, se sei fidanzato, puoi organizzare un'uscita, andate a mangiarti una cosa, un ristorante, potete andare al mare, però quando sono poi i figli, comunque il lavoro con i figli che devono conciliare, no? E comunque le spese, perché comunque si paga una casa, certe cose un po' le lasci andare. Certo che sì, anche se è un po' sbagliato, perché... diciamo che lui, io sono andato al suo matrimonio, lui è venuto al mio, capito? Però dopo che abbiamo avuto i figli un po' si sono divise le strade, ma non divise perché abbiamo bisticciato, è proprio per questione di impossibilità di farlo, capito? E prima andavamo a mangiare la pizza insieme, eravamo sempre uno a casa dell'altro, il sabato veniva lui, andavo io in campagna, capito? Eravamo sempre insieme, però poi vabbè, la vita è così, no? Ti crea anche, ci sono anche i problemi, le cose, poi vabbè mi sono separato, quindi le cose non erano più uguali. Vabbè, già, ci sono dei cambiamenti, è una vita che bisogna accettare, però ripeto, ma è così, man mano che si va avanti con la famiglia, rimane anche il fatto che quando sei ragazzo c'è un entusiasmo, poi con noi, con la famiglia, c'è un entusiasmo di meno, ne hai meno furia magari, o magari volessi divertirti di più, però dice, con la famiglia magari non mi dico lo stesso, nello stesso modo. Quando c'è i figli comunque a quell'ora ti devi ritirare, magari vai lì a cena, nel mezzo del divertimento, tuo figlio non ci vuole stare, si mette a rompere le palle, te ne devi andare e ti trovi male, non sai con che faccia dirglielo, con come guardarli, cioè io ho fatto certe cose e poi le ho evitate nel tempo. Già è vero, i bambini poi non sopportano più, una certa ora se ne vogliono andare, hanno sonno, capito? È così, funziona così, purtroppo è la vita quella, però è interessante che tu quando ti trovi e trovi bene, sai che è sempre un amico tuo, che non l'hai perso, che magari le condizioni di vita hanno cambiato le cose, però non l'hai perso come amico. Ah beh sì, ma vedi Tino, io con Tino ci conosciamo da ragazzi, io non 16 anni, non so quando ne abbiamo tutto, 15 neanche 16 anni, sono andato con lui anche molto ancora, eppure non è che ci frequentiamo, sì, mi ha invitato a pranzo, a cena, quante volte mi ha citato la verità, se non sono andato poi comunque mia moglie con studio, quella bambina era piccola, poi è poi là, poi io, non so un po' se piace, a me non piace molto stare a casa delle persone, sono un po' solitario, diciamo, mi piace stare a casa mia, però che ci vediamo, lui viene in campagna, io parlo da lui, ci chiamiamo. Beh certo, c'è un bel rapporto, ed è bello che sia così. E vabbè, un po' tutti io, prima, quando appena mi sono sposato, qua c'era sempre gente a cena, tutti i sabati, il fatto che veniva la cena, però non contraccambiava, non capito? Io a mia moglie un giorno gli ho detto, ascolto, facciamo una cosa, siccome stiamo aspettando troppo, e poi a fine mese, capito? E quella ragione, io toglievo di tutto, quando c'è gente, poi io sono fatto così, tolgo tutto quello che ho, lo tolgo, lo metto a tavola, eccetera. Però poi ci siamo accorti che le spese erano troppe e alla fine abbiamo dato un taglio, ho detto qua o facciamo una volta a casa di uno, una volta a casa dell'altro, oppure niente. E poi ho visto come ho tagliato un po' io, capito, sono scomparsi. Sì, perché vabbè, ci sono anche, a parte gli amici veri, poi ci sono anche gli opportunisti, quelli che praticamente se li inviti vengono tutti i giorni, però loro o non hanno abbastanza spazio per ospitarti, o magari né marito e moglie sanno cucinare, quindi non sanno come potersi accogliere, e comunque molte cose, fatto sta che la buona è sempre non devi, ecco. Ma infatti poi ci siamo fatti un giro di conti con mia moglie, ha detto va, qua bisogna dare un taglio perché stiamo esagerando, tutti i sabati non va bene, se permetti me ne vado in pizzeria con quei soldi lì e ce ne andiamo insieme con la famiglia e basta, appunto. E poi vabbè, qualche scampagnata, qualche cosa, andare a arrostire, andavamo nei posti, giravamo dove ci sono quelle panche, i posti per arrostire, quante ne abbiamo fatto di arrostite così all'aperto, anche per i ragazzi che stavano all'aria aperta, capito? E niente. E adesso un po' le cose si sono, vabbè, le cose si sono un po' calmate con il fatto che si è più grande, cose non è più grande di nuda. Io già ce l'ho sempre la voglia, io sono sempre giovane, anche al concerto da poco, sono andato al concerto in Piazza d'Italia, sono andato al concerto che c'era, come si chiama, delle vibrazioni a Porto Torre, a me mi piace girare, però devi trovare sempre la persona che con te lo faccia, capito? A me chiaramente devi trovare sempre una compagnia che ti venga alla serata tranquilla, però aspetta, non è che le persone smettono di fare le cose perché di fare cose, non è che si stanca, non è che non ne hanno più voglia, che perdono l'entusiasmo, hanno sempre, dovrebbero avere delle persone a fianco che gli danno quello sprint, quell'entusiasmo, che dice dai, ora stai lì seduto, non ti fa, io mettiti le due scarpe e una tuta che andiamo a correre, un esempio. A me mi piace spronare le persone, cioè sono di quelli che spronano, non di quelli che vengono spronati, a me mi piace fare le cose, molte volte il telefono dice devo lavorare, non posso venire, alla fine prendo, se devo andare vado lo stesso io, tanto non è che telefono gli amici, uno deve lavorare, l'altro non ne ha voglia, l'altro qua, l'altro là, alla fine poi dico vabbè vado lo stesso, non mi ne troverò qualcuno là, e in effetti succede sempre così, che qualcuno lo trovi sempre, perché io gente ne conosco, se vado a Porto Torre si conosco tutti a Porto Torre, se vado a Sassari lo stesso, per cui solo non rimango mai, quando decido di fare le cose è quella la ragione, basta, sino sino a due mesi fa convivevo con una donna, adesso non ce l'ho più, l'ho mollata e quindi sono di nuovo da solo. Vabbè, ci hai provato, dai. Beh, sono stato 3 anni insieme, però poi le cose se non funzionano a me non mi va andare avanti con una persona che magari non mi dà quello che voglio, non mi sta bene, dai. Vabbè, poi già, ripeto, a quell'età me ne penso, te l'hai fatta, già lo sai quello che vuoi, quindi non è che hai bisogno che te lo scrivano nel quaderno. Perché le donne sono tutte così, all'inizio sono tutte dolci dolci, dopo gli avanti lunghi, quindi a me le persone che ti vogliono sopraffare non mi piacciono. In casa mia io comando e chi se la legge, non ci deve essere nessuno che mi comanda a me. Anche quello comunque non è un bel ragionamento. No, se si decide insieme è un conto, ma che ti vogliano sopraffare in casa tua non va bene. No, sopraffarti è una cosa brutta, però anche voler comandare non è neanche il massimo. Dico che se due persone decidono di stare assieme, di comunque in certo modo dividersi quello che sono gli spazi, devono cercare di trovare un punto di incontro. Esatto, ma se quello non si trova, chi c'ha la ragione? È quello che ti voglio dire. E poi altre cose, no, non mi andava più, basta, no. Sono meglio da solo. Già, è una tua decisione, per carità. Ognuno di noi ha quei momenti dove è come quando tu senti la necessità di uscire, dici no, oggi voglio uscire, voglio incontrare persone, non ci voglio stare a casa, ecco, così è. Poi c'è il periodo che uno vuole stare santa pace a farsi un resoconto delle sue idee e poi diciamo, sono arrivati alla certa età, lo sappiamo, no? Cosa vogliamo. Sì, ma ci sono tanti fattori che all'inizio c'erano, poi stava diventando una cosa che non mi piaceva più. È inutile, io sono occupato così, una cosa o mi va bene o non mi va bene, non c'è una via di mezzo. Ma è giusto che sia così, che comunque se devo modificare lo stile della mia vita per gli altri non è più un star bene assieme a una persona, perché vuol dire che mi sto adattando. Se mi devo adattare agli altri vuol dire che sto cambiando qualcosa in me, ma io qualcosa in me non lo voglio cambiare. È quello, infatti. È così. E quindi molto papa se ne va di un altro, e se non si fa rimango da solo e sto tranquillo lo stesso. Non devo niente a nessuno, nessuno mi deve niente, per cui sto bene così per il momento. Poi se verrà qualche cosa si valuterà, ma sempre in punta di piedi, in punta di piedi. Adesso in casa prima di entrare una femmina mi passa perché comunque ti brucia una voce, ti bruci due buchi e poi il fatto di mia moglie, io ho vissuto 25 anni, stavo bene, non posso dire no, stavo bene, perché stavo bene, poi vabbè, mancato l'amore, ci siamo mollati per quello, però non posso dire di aver passato un brutto periodo, ho vissuto dei bei momenti, quindi non posso dire il contrario. No, ma io per una volta non intendevo, perché tu c'è una volta con questa e tu ci due volte sì ho capito, no vabbè, io avevo contato proprio vabbè, se la via tu vabbè, poi mica uno è solo agli amici, ai figli, a tante cose. Ma io con mia moglie con la mia ex moglie ci sono uscito anche ieri e noi andiamo d'accordissimo, siamo rimasti molto amici, capito? È venuta a pranzo a Pasqua perché i miei figli, per non lasciarla sola, hanno detto facciamo venire anche mamma. Ma certo, fatela venire, non c'è problema. E anche perché provare odio poi alla fine provola sia a te che gli altri. No, io sono uscito anche avanti ieri insieme. Siamo usciti insieme avanti ieri, quindi problemi non ce n'è, io non ho nessun problema. Se lì c'è un problema mi chiama, mi dice già così e così, e se posso aiutarla l'aiuto, lei aiuta a me. Dico la verità, siamo così, perché siamo rimasti 25 anni insieme, ce l'avamo anche non un giorno. È una bella cosa, già, una bella cosa, nonostante tutto, da una mano all'occorrenza, è proprio una cosa che ti fa, che vi rende grandi, maturi. E tu, io quando noi ci siamo mollati, i mobili me li ha lasciati tutti qua, io li ho comprati tutti nuovi per la casa nuova, capito? Sono stato 4 anni pagando mobili, non me ne ho fatti nulla, l'ho pagati, quindi te lo posso anche dire tranquillamente. Ci ho comprato tutti i mobili dall'A alla Z, le camerette, la sala, la cucina, tutti i mobili li ho comprati io, capito? Lei mi ha lasciato questi, tanto erano nuovi, ho detto cosa stiamo a trasportare, a fare, mobili buoni, non mobili di cavolo. Qua io c'ho tutto quanto, la sala in noce, eccetera, eccetera, quindi non sono mobili di modo convenienza per renderci conto, no? E ne ho comprato tutta la mobilia, ma noi siamo stati sempre in pace per questo motivo, perché uno aiuta l'altro e quando si è trasferita di casa sono andato anche a dargli una mano a pitturare, a fare, loro l'hanno data a me a pitturare la casa, insomma c'è questo tipo di rapporto, capito? Che vorrei che non si disfasse mai questo tipo di rapporto. Io ho avuto le mie storie, lei ha la sua vita, quindi problemi non ce ne sono, però ci telefoniamo, come stai, come non stai, la verità, ci troviamo, ieri siamo usciti insieme, siamo andati a comprare la roba per mio figlio che deve andare a fare la stagione e gli abbiamo comprato le scarpe, tutto quanto, l'abito che si deve mettere, i pantaloni perché deve andare a fare la stagione in albergo qui. Ma tu cosa fai, che l'hai studiato all'alberghiero, no? Allora, mio figlio ha fatto lo scientifico, si stava per laureare, mi mancavano 2 esami più la tesi, e ha avuto un colpo di testa, una crisi e non ha voluto più continuare, e adesso si è fatto la stagione, ci vuole ragionare un po' e poi forse vuole cambiare facoltà. E vabbè, si è preso un periodo di tempo per riflettere, infatti mi ricordavo che lo conosceva mia figlia, ho detto, mi ricordo che ha fatto lo scientifico, magari... Non lo so, questa crisi, non so da che cosa sia dovuto, se sia dovuto dal fatto che ha bisticciato con qualche professore, non lo so, non ce l'ha voluto dire, ha detto che per lui è un momento così che deve riflettere, che magari... gli mancavano pochi esami, capito? 2 esami più la tesi e si sarebbe laureato. Lo so, cosa stava facendo? Come si chiama? Biologo, tecnico biologo. Tecnico biologo, come mio fratello piccolo. Però ripeto già, no, ma questi giovani ce l'hanno questo coso, anche mia figlia mi ha dato gira di testa, un giorno mi abbraccia, un giorno mi odia, un giorno mi vuole bene, un giorno mi ama, un giorno mi disprezza. Sono periodi, capito? Il periodo dell'infanzia sono stati sempre così, io mi ricordo che quando ero ragazzo mi ribellavo anche con mia madre, cercava di prendermi in tutte le maniere, a volte mi ribellavo, se mi dava retta la ritenevo la mia amica, se mi diceva che stavo sbagliando magari, capito, la contraddicevo, capito? Lo so, già è così, io lo vedo, ripeto, sai, io quando mia figlia mi dice, viene, mi dice qualche cosa, devo stare attento a quello come rispondo, perché secondo me la dico, sono troglodita, sono omofobo, sono guerriero, sono nazista, sono marxista, sono a fanculo. Sì, sono così. Anche mia figlia, per dire, se dico quello è Finocchio, per dire, mi dice che sono omofobo. Ma prima si diceva così, ma non lo dici per... Oppure se dici negro, mamma mia, quanto si incantano i miei figli se dici negro, ma non lo dici per disprezzo. Ci sono anche le canzoni, c'erano le canzoni, diceva appunto la parola negro, capito? Adesso è che si cerca di cambiare, come lo spazzino, lo chiamano operatore ecologico, eccetera. eccetera eccetera, ma rimane sempre quello lì, e quello lì è il lavoro, non è da disprezzare, perché tutti i lavori, se sono fatti onestamente, mio padre mi ha insegnato sempre che se un lavoro è fatto onestamente può essere quello più umile che ci sia, però è sempre un lavoro. Il lavoro nobilita l'uomo e lo rende simile alla bestia, ma tu vedi diversamente bianco. Scusami, nero, no, non si dice più neanche nero adesso, perché anche nero era sì, adesso non so come cazzo si dice. Diversamente bianco. Bianco. Diversamente colorato. Di colore si dice. Negro è in senso dispregiativo, hanno ragione, non dobbiamo chiamarli negri, sporchi negri. Vabbè, allora a me perché mi chiamano bianco, certo mi devono chiamare chiaro, chiarito. Diversamente colorato ti devono chiamare anche loro, se no ti offendono. Sono tutto pallido. Sì, cosa siamo? Che fria, già l'avevamo bigliata una, ya. Excuse me. No, abbiamo creato comunque già una gioventù che non riusciamo a seguire, perché qui sono i 2x3, siamo una tecnologia nuova. Io molte volte, guarda che sono avanti, perché sono documentato, sono, però molte volte mi lascia. Adesso ieri sera mi sta parlando lezione di elettronica, che deve dare l'esame, mi sta parlando lezione di elettronica e mi ha corretto su una fila di un condensatore, ho detto, cioè, infatti ti faccio vedere che stai sbagliando, ti prendo un condensatore, se lo alimento come dici tu e te lo faccio scoppiare in faccia. E vedi, e poi dice, vedi, lo sai tu come sei così, tu sei così, non c'hai il bianco, c'è il bianco, sei nero. Ma vabbè, non puoi insegnare, cavolo, a una persona che c'ha, non ha solo la teoria ma c'è anche la pratica. Quello lì, loro credono di spaccare il mondo tante volte, però non è così, non è così. E sono, sì, e anche mia figlia ha avuto un periodo, quando era piccola, quando tornava a casa, mi saltava addosso, mi abbracciava tutto, mi saltava da lontana. Poi ha avuto un periodo che un po' si è distaccata, il periodo della pubertà, si è un po' distaccata da me, si è attaccata di più a mia moglie. Poi ha ripreso con me, capito? Ha ripreso, abbiamo avuto, aveva scritto delle cose, mia moglie me le ha fatte leggere, mi ha detto, renditi conto che forse si sente un po' staccata da te, anche se mi vuole bene, papà è un po' staccato da me, ma non è quello lì. Il fatto è che si è staccata anche lì un periodo, però poi ci siamo ritrovati, capito? Adesso lì a Bologna però ci scriviamo sempre, ci telefoniamo, capito? Lo so già, però ripeto, sono dei momenti che ti piantano e non sai davvero, io ci sono dei momenti che non so se star zitto, se mi conviene star zitto o se mi conviene dare delle risposte più o meno ambigue, così su chi va là. Vabbè, se uno è sicuro di avere ragione, gli deve far capire che lui sta sbagliando, ecco quello lì, il padre, la lezione del padre è quella, che deve portare i figli sulla strada giusta. Se tu vedi che lei sta sbagliando dicendo una cosa, io sarei del parere che la devi correggere. Anche lì c'è il dialogo, capito? E il dialogo serve anche per quello, per correggere gli sbagli che fanno i figli. Lo so, ma molte volte sai, non sai veramente mai come comportarti, perché magari ti mettono nelle condizioni che ti metti anche tu in discussione, dice, ma stavo pensando una stronzata o sto dicendo la verità, oppure non è che veramente sto dicendo una stronzata e sto cercando di convincerla che ho ragione io, non ho capito. Vabbè, devi essere sicuro, quello che si dice che bisogna anche essere sicuri se hai ragione o torto. Purtroppo fare il genitore è un mestiere molto difficile, molto molto difficile, perché i figli cambiano carattere, cambiano amici, cambiano i modi di pensare. C'è la mia figlia che si vestiva tipo Dark, quando eravamo disperati. Si comprava queste anelli con la morte, mamma mia, guarda, e un'amica nostra ci ha detto, non vi disperate, anche mia figlia era così. così quando era piccola, poi ha cambiato, adesso si veste tutta bella tirata, tutta così è stato, ma noi la seguivamo, andavamo a cercarla, capito, a Sassari, andavamo con la scusa di farci un giro, andavamo a cercarla nei posti, e più di una volta l'abbiamo trovata con altri amici, una volta l'abbiamo trovata con questi qua che ci avevano la cresta, mamma mia Giudizio Baccari, dai, l'abbiamo chiamata, ma noi la si è fatta bianca quando ci ha visto, e lei stava ridendo, scherzando, suonando la chitarra, sai, però vederla così mi dava un po' di coso, capito? Mi faceva male vederla, una ragazza così carina, vestirsi con questi catene, queste cose qua, carina. Anche mia figlia ogni tanto ha il catenaccio legato ai pantaloni, si mette i miei giubbotti, questa è l'altra, non mi compete un cazzo, già non sei capito più niente. Sono periodi che passano, che sta di causa, cioè, non vi disperate, che sono periodi che passano, così è una moda e poi già li passa, infatti così è stata. E niente, questi anni con la morte, disegnata, cavolo, mamma, mi facevano un coso che si aveva fatti i capelli viola, mamma mia. Nell'adolescenza succedono queste cose. Catenine, poi le assolte, anellini, prima si metteva le fasce nei polsi, così, il cura nei polsi, quella l'ha passata e ogni tanto ne ha una nuova. Passano, sono periodi che passano qui, di passaggio, già mettono testa poi. Adesso mia figlia, grazie a Dio, è laureata, ci ha preso la laurea più la specialistica, quindi sta lavorando a Bologna e sta bene. Lo so, io molte volte dico a mia figlia, figliami quando è che ti vesti la donna? E mi dice, ecco, vattene. Perché se ti dici da qui, quando vado a lavoro, facciamo i lati, ma giù molto largo, maglietta larga. Natali, avanti, via da te che tu non hai di migliore, non hai di questi problemi. I miei sono grandi, sono, e c'ho i problemi grandi. Già è vero, anche quello. Da ragazzi sono problemi gravi, anche se prima dicevo, ma io una volta diventa grande sono di loro. No, sono sempre cacchi nostri. Secondo cosa combino, sì, e se non sono cacchi, sono fichi d'India. Sì, infatti, con le spine. Cultura che almeno non si drogano, non sono delinquenti e tutte queste cose qua. Quella è una grossa fortuna, perché tu gli puoi dare l'educazione che vuoi, poi se trovano gente che magari li trascina, li fa, si drogano, si fanno, mamma mia. Terzo break. Perché? Avanti Giulio! Oh, ciao Gianni, guarda che il microfono si sta difettando, di tanto in tanto sparisce la voce. No, sono entrato per salutare Antonio, ciao Antonio, dopo un po' di tempo finalmente ti risento. Come va Antonio? Buonasera Giulio, ciao, guarda mi fa veramente piacere che sei entrato, che ti ho sentito. Tutta la volta che mi capitava di sentire qualcuno dicevo, ma è Giulio, io non lo so, ma sta entrando. Ti ha fatto veramente piacere, io sto benissimo, e tu Giulio, cosa mi dici? Diciamo che tiriamo avanti, dai, come vecchietti. Tutto sommato va bene così, no? Non c'è problema, no? Per cui si sa, solito intanto un tagliando bisogna fare, ma quello è normale, è arrivata ad una certa età, bisogna fare quello, come la macchina, no? Bisogno di macchina, proprio questo mese devo revisionarla, perché sono passati i 2 anni da allora e dunque devo revisionare, ma interessante che vada bene la mia revisione, poi della macchina non me ne frega più di tanto, scusa già. Ma figurati, c'è anche Natalino. Ah, ciao Natalino. Sì, dipendo io, scusate. Sì, giù, la macchina uno se la può comprare a nuova. Noi se non ci possiamo mettere a posto da sole, non è che decidiamo domani mattina, io vado e mi compro nuovo. Già lo credo. È purtroppo così, quello che conta è la salute, poi per il resto viene con i sacrifici e con la buona volontà viene tutto quello che uno desidera, non c'è problema. A casa tutto a posto, tutto tranquillo, a tu, qui da noi ugualmente tutto a posto, vai. Quello che è, babbo, era morto, l'ho saputo, sì. Sì, l'avevo saputo e mi è dispiaciuto tantissimo, devo dire. Io un paio di mesi fa ho incontrato tuo fratello, me l'aveva anche detto, però già lo sapevo, non so da quale fonti mi era arrivata la notizia, però l'avevo saputo prima. Ad ogni modo poi ho trovato tuo fratello l'altro giorno, 2 mesi fa, dai, e me l'ha confermato lui e mi è piaciuto veramente tanto, peccato perché era un uomo che mi piaceva come persona, per cui è andata così la vita, però so che aveva sofferto tanto cosa ti posso dire? Non so se dire che forse così è meglio, non si può dire, perché è impossibile poter dire una cosa del genere, ci mancherebbe altro, però se era sofferente, per come mi ha raccontato tuo fratello, non so cosa decidere o di dirti o Antu. No, giù, hai ragione, anche io per le volte che lo vedevo davvero mi dicevo sempre una preghiera affinché qualcuno se ne appenasse, perché non si poteva vivere una vita così. Poi negli ultimi periodi era proprio terra a terra, era entrato in coma 2 o 3 volte, era stato intubato, cioè non poteva, il cervello aveva avuto ancora altri danni, quindi è stato una grazia, diciamo. Una grazia e una disgrazia, ma vabbè. Purtroppo la vita è questa, nel cielo sia lui, per cui è andata così, pazienza, cosa ci vuoi fare? Quasi quasi mi commuovo io, figurati un po', perché una persona che conoscono, quando so che decedono, a un certo punto mi dispiace tantissimo e devo dire che quasi quasi mi viene da piangere a me, penso comunque, è andata così, pazienza, la vita purtroppo continua. Vai Gianni. Eia, sì. E io sapevo anche che era ricoverato al Ghero, ma che era morto, non mi ricordo che me l'abbiano detto. Sapevo che era ricoverato al Ghero perché tuo fratello mi aveva detto che doveva andare al Ghero a trovare tuo padre, che l'avevano ricoverato lì. Però poi ero rimasto lì, chissà. Sì, no, l'avevano ricoverato al Ghero perché quando sono stato la stazione non c'era spazio, quando lui si è venuto male hanno chiamato l'ambulanza. Non ne volevano proprio, non c'era spazio, mi hanno mandato direttamente al Ghero, non avevano ricoverato lì, però era praticamente in coma, ci ha fatto 2 o 3 volte, 4 volte, 4 comi diversi, è intubato più di tante volte, era andato, cioè, è stato, guarda, veramente una grazia. Quando stanno male così, guarda, non ci vorrebbe, però a volte bisogna augurare la morte, perché quando stanno male così è meglio che se ne vadano e stiano in santa pace, e oltretutto non creano più problemi nemmeno ai parenti, capito? Che devono stare sempre andando, tornando, facendo, e purtroppo sono cose brutte da dire, però è così. Guarda, già, come l'ho visto io, come l'ho conosciuto io, che era un uomo che aveva sempre tempo per aiutare a tutti, andava a fare le punture a tutte le flebo a casa di quello, punture a Guido, tutto quanto, così, a più di tempo per niente, dicevo, ma che te lo fa fare? Ma state a casa. E lui era con questa cosa lì, a me mi dispiace, quello male non c'ha soldi per cercare le punture, guarda che dice, come l'ho visto io, sai come l'ho conosciuto io, vederlo così era straziante. Quando è morto non sono riuscito a far cadere una lacrima dai miei occhi, la verità. Perché succede così, Anto, succede così, perché a un certo momento uno non, pensa, ma che sia stata una liberazione non per te o per i familiari, ma per lui stesso. Però cosa ci vuoi fare? La vita è stata, è sempre stata così e lo sarà sempre, e cioè crudele. Per conto mio la vita in certi casi è molto, ma molto crudele, perché mio padre allo stesso modo era malato per un paio di anni e poi alla fine è morto in una maniera che adesso non te lo voglio dire per radio, però guarda cosa vuoi che ti dica. Mentre aveva un desiderio, cioè un desiderio, un bisogno fisiologico, ed è morto lì. Tu cosa vuoi che ti dica? Lo so Giulio, è difficile in certe situazioni dare una definizione al dolore, perché comunque, però ripeto, io non, ancora oggi mi sembra che non sia morto, ma ancora oggi molte volte mi sveglio la mattina e lui veniva sempre tutte quante le mattine, ci vedevamo sempre, ma ancora oggi molte volte dico, ah no, ma però sono contento davvero, mi ha sollevato il fatto che abbia finito di soffrire, perché soffriva poverino troppo, ha sofferto dopo 10 anni, messo lì, anche se comunque mia mamma lo teneva in una maniera esemplare, però lo sai più, quando una persona non ha la sua libertà. Anto, purtroppo è così, sapendo ad esempio, tu ti capisco benissimo, guarda, ti capisco perché io ci sono passato, per cui mi rendo conto, mio padre è sempre stato una persona molto forte fisicamente, un uomo che ha lavorato una vita intera, nonostante che aveva una piccola invalidità, però ha lavorato una vita intera, non ha fatto mancare mai niente alla famiglia, però quello che ha avuto purtroppo l'ha consumato, ti posso garantire, c'era più pelle che carne nell'uomo, erano le ossa avvolte con la pelle e basta, tutto lì. È stato 2 anni, è stato che ha sofferto tantissimo, ma tanto, e tutto sommato non dico che sia stata una liberazione, perché mancare un genitore è una cosa gravissima per un figlio, soprattutto in una famiglia alla quale si è sempre andati d'accordo, eccetera eccetera, però ritengo che forse era meglio così. Per continuare a vederlo come l'ho visto io, è meglio che sia morto 25 anni fa, come è successo. Va bene, dai, pazienza, avanti Gianni. Io nel frattempo ho cambiato il radio, dai, tanto questo qua è la statica, è quello che ti stavo dicendo. Sì, no, va bene, lo sai che comunque l'ho notato io poco fa, mentre modulavi, pensavo che fossi magari tu che ti allontanavi dal microfono, ho notato che quando andavo in trasmissione la voce tendeva a aumentare gradualmente. Magari premevo male il pulsante del PTT, capito? Perché quello è l'ultimo, è nuovo il microfono. No, infatti ho pensato anch'io a quello, ho detto si allontana o... molte volte capita che rispondi così, allontani dalla bocca. Ti sentivo perché arrivi a fondo scala qua, quindi anche se stai zitto ti sento. Poi ancora non ho capito dove sei di casa, non ho capito ancora. Più o meno sì, che sei in via Prati, l'ho capito, però non esattamente dove. Io non sono in via Prati, io sono alla fine di via Grazia della Ledra, sono tra lo scorrimento veloce, dove tra la strada c'è la frutta e verdura e c'è via Grazia della Ledra, io sono lì. Ah, sì, in Moscardì. Sono lì praticamente. Acciugabido, e quindi siamo vicini, dai. Sei vicino a Marco, sei vicino a me. Sì, no, a Marco proprio ce l'ho, si può dire, dietro. Questo qua è il Ruiz con la Static, va bene? Il Ruiz con la Static, quello ha presentato, come stavi dicendo, che ti secca il dito. Gappa, quello lì, quello che mi fate me lo sta già seccando. Perché è quadrato il tasto, capito? Anzi, non è di quelli lunghi, è quadrato, ti entra dentro al dito. Ho capito, è il Ruiz, quello che ha gli strumentini grandi. Esatto, gli strumenti verdi grandi, il canale, l'orologio, tutto, cioè, è bellissimo poi come audio, è come il Galaxy, qua si sente benissimo l'audio. No, è una bella, l'avevo visto tempo fa io, a casa di, non voglio dire il nome, non lo so, era magari suo, no? No, questo qua io l'ho comprato su internet da un collezionista che c'aveva tutti gli apparati, collezionava apparati base, e ne ha diversi, infatti li stava prendendo tutti perché è diventato radioamatore, si doveva creare degli spazi, ce li aveva tutti in vetrina, questo non c'ha manco un graffio, è proprio come è uscito dalla fabbrica, nuovo. No, siccome l'avevo visto io tempo fa a casa di Giamin, di un amico in comune, ho detto magari gliel'ha venduto. No, vabbè, ce ne sono, magari chi ce l'ha qua lo so, ce l'ha Marco, ce l'ha Walter, non penso che ce l'abbiano altri a Sassari questo Ruiz. Non lo so, Marco chi? Marco, quello che ci vicino a casa tua. Ah, ce l'ha anche lui. No, di lui non lo sapevo che ce l'avesse. Giulio? Ok, a tu. Comunque sei più vicino a Vittorio tu che a Marco, dai. Per cui, sì, no, ma c'è bene, la tua radio c'è bene, Gianni, non c'è problema. Alla grande. Anch'io sto usando un baracchinetto da 4 soldi, Antù. Diciamo che è il cugino del 3009, del Superstar praticamente. È un CRT 6009. Tutto lì, 170 euro e ho un baracchinetto da 4 soldi che mi va molto bene e mi piace anche, tra l'altro. Vai Antù. Ah, bene, quindi sei passato alla modernità, non ne stai più usando altre radio? No, diciamo che non ho praticamente più niente all'infuori di quello grande che tu sai, quello ce l'ho sempre, ma non lo uso mai, è troppo ingombrante, qui mi manca lo spazio, mi manca dove metterlo, tavolinetto stretto che a malapena ci entrava giusto dentro, e dunque non volevo, perché se mettevo quella radio non ci stava il microfono, non ci stava, e poi avevo anche problemi con l'alimentatore eccetera, per cui ho preferito comprare questo. Ce l'ho un annetto, non è che ce l'ho da molto, un annetto, c'ho un anno e un paio di mesi, dai. Però va bene, dai, è dell'ultima generazione della Superstar, uno degli ultimi della Superstar. Vai Antù. Sì, già, a proposito di quello, c'ho anche quello scatolato. Perché? Avanti, Cappa. Certo, che ho dopo tanto. Ma questo chi è? Tonino. Cappa. Ah, Tony, abbassa un po' il carraglio, un aburottoso il vino. Ehi, ad ottanta, dai, cavolo, mi fa piacere sentirti. Sotto nel circolare la ruota che c'è su 10. E allora tu, che mi racconta? Adesso ti sento bene, è abbassato un po'. E cosa ti racconto, Tony? Così, avanti, in tre, le solite cose, un po' di calma in questi giorni, ho detto, ma si mette a fare qualche cosa, poi c'è la radio, ho sentito una chiacchiera con uno, una chiacchiera con l'altra, si sono fatte le 7:15. Che giorno sia tu? Via Grazia da Alta. Allora mi senti bene, io sono campagna, dai, però zona San Camillo. Sì, no, sei buono, adesso ce l'ho finita di traverso, però dovresti superare il 9, la radio te l'ho già detta, com'è? Certo. Bene, Eva, Giulio, ripeti, fa girare. Ciao Tonino, ben riascoltato. L'altra volta, l'ultima volta che ci siamo sentiti, purtroppo ti ho dovuto abbandonare perché avevo mal di gola, che poi tra l'altro me la sto ancora trascinando, tant'è vero, anche poc'anzi ho fatto l'aerosol, per cui, però diciamo che adesso sono migliorato, posso gridare un pochino di più, tutto lì. Avanti Tony, ci dovrebbe essere anche Natalino, e se risponde, perché poc'anzi mi sembra che non ha risposto. Avanti Tony. Quarta soltura Natalino, Gianni, chi c'è altro? Non so, di solito Gianni c'è qua. Gianni? Ciao Tonino, dai, non mi avevano rilasciato, non ho fatto il tempo a salutarti, dai, però vi saluto tutti cordialmente, io me ne sto andando perché devo andare a farmi la doccia e poi devo portare giù il cane, dai, vi ascolto e mi ha fatto piacere anche tu fare questo anche con te tutta la sera. Vi dico grazie per il QSO, mi allontano, vi ascolto ma mi allontano perché devo fare la doccia. Dai, ciao, ci sentiamo, buon proseguo, grazie per il QSO di nuovo, ciao. Riprendo io, ciao già, grazie, ti ringrazio anche io, mi ha fatto piacere cambiare due chiavi. ciao Gianni, per norma ricordati sempre di staccare l'osca da bagno prima di entrare sotto la luce. Questa è un'abitudine che dobbiamo avere tutti quanti per sicurezza. Vai Tony. Ciao, io lo faccio sempre. Ciao già, buon corix, buon corix, eccetera, buona doccia, buona passeggiata che Italia. Ok. Avanti Natalino, ci sei. Natalino riprende. Antonio riprende. Giulio lo faccio sempre, ma lo scaldo al bagno e nel doppio servizio e il bagno e nel bagno grande, dai. Quindi non ci sono problemi. No, il problema c'è, Gianni. Il problema c'è, devi staccare la corrente anche se lo scaldo al bagno ce l'hai a 500 metri da casa tua. Staccalo sempre. Vero Tonì? Scappa, non si sa mai cosa potrebbe succedere alla vita. Anche che ricorda ci fa accendere un piede. Cuccia! E che cavolo! Avanti giù! Ehi, no, io lo stacco solo quando si fa la luce, mia moglie lo scalda a bagno, anche perché mi ha gas. Dopo tanto ti risento, mi fa veramente un immenso piacere a tu. Tony, ogni tanto, io molte volte quando sto riparando qualche cosa vi ascolto, non lo nego, che ho sentito tante volte dicendo, sono amici di Bugli, però se mi metto a prendere il microfono per parlare non faccio quello che devo fare. Anche quello è vero, io non è che entro ogni giorno, perché molte volte sono anche 2-3 giorni senza entrare, anche una settimana, dipende, se ho molti impegni, capito? Ma è così, a me molte volte mi fa del piacere, adesso entro, saluto, poi saluto quello, se entra l'altro, e non combino niente. Già non ho mai tempo per riparare qualche cosettina che mi chiedono, qualche amico, qualche cosa. In più se mi metto alla radio, non ne volevo più. Capita, comunque succede. E io molte volte infatti non accendo neanche, perché tanto niente, mi va bene così. Intanto io sono usato il solito Galaxy Saturnico con un microfono da qua, lo sciure, tutto qua. Beh, il segnale è buono, più di 9, io sto usando, no, sto usando un... gli ho messo mano ieri a questo apparecchietto, è un Realistic, un 40 canali a stazione fissa degli anni 70, ce l'avevo, me l'avevano regalato ed era sempre qui sul tavolino in cantina. Ho detto lo controllo, un giorno l'ho acceso, visto che non aveva audio, allora ho guardato con l'oscilloscopio, visto che non c'era segnale in uscita, in entrata c'era il finale bruciato, non si trovava nessuna parte il finale, poi in campagna ho trovato un po' di bacchini dismessi, ho trovato un finale che andava bene, l'ho montato e ieri era lì, tutto lì, e adesso sta andando finché vuole andare. Logo 25 rapporto tuo, però 25 perfetta. Avanti Giulia. Ok Tony, ci picchia. Ora il tuo problema della gola. Vabbè dai, comunque. Ti stavo dicendo Tony, ogni tanto devo fare tagliando alla gola e non solo alla gola, un po' a tutto. Anche poc'anzi ho fatto l'aerosol, ma comunque ancora non sono al 100%, comunque. Va bene lo stesso, dai, tiriamo avanti, intanto lo sappiamo. Tu l'altra volta mi hai detto che io non sono vecchio, no, hai ragione, forse hai ragione fisicamente, però gli acciacchi ci sono, Tony. Dunque la vecchiaia incombe. Non credi che sia così? No, io sono anziano, non vecchio. Il vecchio comincia a essere uno 90 anni, capito Giulio? Tu non ce l'hai 90 anni, quindi. Io mi ributto, non lo so neanche io perché ripeto, ho l'età che io lo dico perché poi non ho vergogna assolutamente. Sono già pensionato da 2 anni, compio a settembre 69 anni, non le dimostro, sono sempre uguale e non me ne sento. E quindi continuo a campare, tutto qua. Tony, certo che sì, a quell'età lo stesso, io stavo ancora in piena attività lavorativa, mio Antonio lo sa che lui veniva sempre da me in bottega, per cui sa benissimo sino a quanto ho lavorato, però tu ne hai 69, ma hai una di 81 e la differenza incomincia a essere è grande, nel senso che arrivo, è come i bambini, no? Per dire, non so, se hai un anno e ne hai 5 o 6 c'è una grandissima differenza, è così ad una certa età, se ne hai 70 e tu ne hai 80 per dire, e la differenza è notevolissima, Tony. Io la penso così, anche perché si sentono poi, gli anni si sentono, altro che se si sentono. Cosa ne pensi tu, Antù? Ma io sì, per carità, siamo consapevoli che l'età è quello che è, però dipende da quello che uno si sente bene. Ci sono, io conosco persone che a 80 anni vanno a piedi, camminano, tornano, vanno, conosco persone che hanno la mia età, che fanno 2 chilometri e rimane la fanno, cioè non si può definire, dipende le condizioni fisiche di una persona innanzitutto, perché ad esempio io ho molti problemi di schiena, sono amici miei che fanno corsa, io lo facevo quando ero ragazzo, andavo a correre lo stadio dei Pini, però poi non ho più potuto fare, andavo anche in bicicletta, non ho potuto fare che ho avuto un problema con la schiena, con le ernie, e adesso ce n'ho ancora di più, adesso c'ho anche quelle cervicali per giunta, e quindi, però ho amici che vanno in palestra, si allenano, corrono, per carità, non è che siano, però già qualcosa più di me la fanno. Sì, Anto, beh, anch'io l'ho fatto tanti anni di atletica, sempre quello, io l'ultima gara a livello agonistico l'ho fatto che avevo 43 anni, tanto per darti un'idea, per cui io avevo iniziato da presto, da giovane, facevo lavoro, palestra a casa, per cui non c'è stato motivo di, diciamo che l'atletica per me era un secondo lavoro, era un secondo mestiere, tanto è vero, nel 62 per fortuna o per bravura ero anche campione saldo di 10.000 metri su pista, per cui è così, ma uno è avere 20 anni come avevo allora, l'altro è avere 80, la differenza è quella, va bene, non è che mi lamento, per carità non mi lamento perché già so bene, però ripeto, gli acciacchi ci sono e di tanto in tanto bisogna fare un tagliando. Avanti Tony. Vabbè, comunque anch'io gli acciacchi li ho avuti, ne ho avuto anche tanto, 2 anni fa mi sono operato l'enerisco, non in Sardegna, fuori, e dopo 3 mesi sono andato di nuovo a operarmi di un'operazione molto più severa, fatto che sono stato 7 ore in sala operatoria, mi hanno aperto davanti e dietro, praticamente dove il canale passò tutti i denti nella schiena, andava a finire in butto, io vedevo le stelle quando camminavo, 3 passi mi dovevo fermare, mentre invece adesso sono un grillo, mi hanno messo la gavetta titanio, tirante, viti, tutto quanto, sono ordinato, è un'altra cosa, tu, avanti. Lo so, io ho passato tempo, però il mio medico mi ha detto che non è consigliabile, mi ha detto stai attento e potresti finire di dare hotel, non sai mai come comportarmi. Guarda, io mi sono operato da uno dei furi, Antonio, si chiama Tre Soldi, e ho fatto la vista al Ghero, mi ha fatto tutto lui, sono andato partito a Ravenna, a Lugo, praticamente c'è il casino adesso, e Hospital Cecilia, Maria Cecilia Hospital, dirò guarda sono troppo tranquilla, contento, sono ordinato, io faccio tutto, e un'altra cosa. Lo so, Tony, io ti capisco, però ripeto, quando ti scoraggiano, ti dicono, anche perché poi uno ti dice sì, no, non c'è nessun problema, poi quando vai lì e se le cose non vanno bene ti dicono, ma sai, abbiamo trovato un problema dopo. Guarda, mio cugino si è operato lo stesso problema mio qua a Sassari, gli hanno tagliato un pezzo al suo sacco, ho messo la placca di titanio, sempre dolori, è andato a Cagliari, l'hanno peggiorato, alla fine è andato a Monza, ha detto chi è che l'ha macciolato così, questo usavo 50 anni fa, io niente, mi insinto di operarmi fuori, mi sono informato, ho trovato questo dottore che opera fuori, è venuto a Sassari, c'è Valghero che ha uno studio, e niente, ho fatto tutto quanto, sono partito per 2 volte, ho portato anche mio figlio, cioè Manuel Ginco, e si è operato anche lui la stessa cosa mia più o meno. Quindi dirò, io sono rinato fuori e tutta un'altra cosa. Poi hanno anche, diciamo, le macchinari d'avanguardia, no, come qua in Sardegna, Tu pensi una risonanza magnetica qui, te la fanno in mezz'ora, io là, 10 metri contatti, un attacco, un secondo, e entrato uscito già fatto, sono rimasto molto aperta, è un'altra cosa, dai. Vabbè, un attacco da cervello si sa, che noi siamo un pochettino indietro, ma non so. Non si sa mai cosa pensare. Se è un irrealistico, tu hai detto, ci possiamo vedere, ti do il telefono, ti indirizzo tutto quanto. E se vai, vai tranquillamente, ti fanno l'irrealistico ma cosa ne accorgi? Un'oretta di intervento e basta, veloce. Se io sono troppo bene, guarda la verità, io contentissimo, quello che adesso io sono rinato, non ero così, neanche a paragone. Poi io facevo due passi a tu e mi fermavo, mi sedevo, già ne già avevo visto condizioni ero, dai, adesso cammino un po' uno per lungo, cazzo, non c'è. È tutta un'altra cosa, magari, comunque io consiglio gli altri, se ci devo parlare noi in Sardegna, che non mi sono bravi, mi sono niente in dotta, no, che faccio, ti rovineggia. Avanti Giulio. Ok Tony, beh certo che sì, e diciamo che nel corso di un'intera vita sempre dei problemi la gente ha, io ne ho avuto tanti, la verità, incominciando prima di tutto da un infortunio al ginocchio mentre giocavo al calcio, uno, che sono stato un anno e mezzo dopo. Poi ho avuto un problema facciale, che quello mi ha lasciato il segno, è anche molto evidente. Poi ho avuto la cosa simile alla tua, tu hai avuto l'ennio del disco, io ho avuto la sciatica, anche lì sono stati 7 mesi che non riuscivo a muovermi, proprio, e anche lì grazie a Dio ce l'ho fatta a riprendermi, nonostante che ancora ero giovane, ero ancora giovane, avevo appena 38 anni. Poi successivamente, 10 anni fa ho avuto un intervento all'appendicite, 3 anni fa, 4 anni fa ho avuto altri 2 interventi ad altre cose, quelli molto, molto gravi, che tra l'altro sono ancora in terapia, per cui ti puoi immaginare, Tony, guarda, in un'intera vita magari ce ne dimentichiamo, quando una volta che superiamo il problema ce ne dimentichiamo, però i segni ci sono e c'erano perlomeno e ci sono rimasti, e quando ci pensi poco a poco hai detto, caspita, ma io ho avuto tutto questo, altro che se ho avuto altro che è cose gravi anche ho avuto. Beh, tu? Lo so, è così, però purtroppo, ripeto, io sono entrato in sala operatoria più di una volta, mi hanno fatto 3 anestesie totali, una volta per operare allo stomaco, una volta per operarmi allo sterno, che ho tolto la punta dello sterno dopo che ho avuto un incidente in macchina, mani ragazzato più volte. Io ripeto, dopo quello che mi ha detto il medico, andare sotto i ferri, no, francamente non me la sento più, ho trinchi in tutto il corpo, sono aperto dallo sterno fino all'ombelico, ho buchi in tutta la banda, mi hanno dato sonde e malagiusti, ho tagli dappertutto. Perché succede così, Anto, succede, nell'arco di un'intera vita sempre ci sono delle cose che magari noi non avremmo mai voluto avere, però purtroppo ce li dobbiamo sorbire, così. Ultimamente un altro problema sempre la faccia, cosa vuoi che ti dica? Prima non bastava il primo problema, la faccia, anche un secondo, questa è una cosa di recente, anche molto recente, ma se continuo a pensarci e cercare di tirare avanti. Avanti Tony. E prendo io e giù, funziona così. Purtroppo, ripeto, io me l'ha consigliato il medico, non mi sono più, come si dice, visitato da nessuna altra parte perché ho avuto paura, e comunque gli interventi che ho avuto non è solo quello che ho avuto, è i dolori delle ferite, tutte le volte cambia il tempo, una settimana dolori, che sembra che mi stiano tirando le carni vive. Scusate, avevo cambiato il microfono. Anto, ho messo il ZG MB più 4 da tavolo. Ovviamente meno casinista dello Shure, com'è? No, è buono anche questo, però quello era più squillante. Lo so. Siccome l'ha fatto gli attacchi, c'avevo lo spinotto aperto e devo chiudere con il suo morsettino, il suo eccetera eccetera. Quindi l'ho staccato e ho messo questo provvisoriamente. Niente, comunque io ti posso dire solo una cosa, io sono rinato, non era così, io ero anni che stavo sempre trascurando, dopo 5-6 anni mi sono rotto le palline e ho detto, cavolo, 2 anni fa, io sto ancora lavorando, questa non vado in pensione, non voglio andare col barcolino in pensione, mi sono fatto coraggio, sono partito, mi sono operato, tant'è vero che poi sono andato in pensione, tranquillo, cammino con le mie gambe, non ho avuto mai problemi. Lascia perdere chi ti scoraggia, diciamo, a farti dire no, così, colà, un problema, no. Allora, innanzitutto, dolore, guarda, con la risonanza magnetica, sei tutto ok, sei in operazione ok, quindi non c'è problema. Te lo dico, se a partenza bisogna operare, innanzitutto sono dottori che neanche a paragone conosciutissimo, io sono stato alla penna e sono andato a un certo posto poi a dormire, quando ho detto sardo, sarese, mi ha fatto scommetto che mi ha operato a torre tre soldi, pensa un po', tutti lì vanno, per dirti, lo conoscono tutti quanti. Niente, la bravissima persona, bravo, dice lode, posso dire altro? Lo so, però io ho sentito delle persone che sono state operate da lui e che hanno avuto complicazioni gravi, così. Allora sono fortunato io. Allora che Emanuele è stato fortunato. Emanuele se lo vedi camminando, camminava con zombie. E non so, tutto barcollando così, piegato. Adesso è una cosa normalissima. Si è fatto l'operazione mia. Però a me me l'ha aperto avanti, lui l'ha aperto di fianco, ovviamente la gabbietta lo stesso. Guarda Antonio, io ti dico una cosa. Il socio del mio fratello è andato a farsi operare da tre soldi con le sue gambe. Non so cosa